Bene, tutto per l'agenda della settimana teatrale romana. Tra qualche istante una riduzione di penna, una performance voce corpo musica mai scritta da Cristiano Urbani e Antonio Sinisi. Tutti i riferimenti li trovate sulla pagina Radioteatro, sul sito internet della Onda Rossa, che è ondarossa.info, alla voce trasmissioni Radioteatro, idem per quanto riguarda la pagina Facebook del Radioteatro. Ne parleremo dopo con loro. Buon ascolto. Sono un uomo piuttosto avanti negli anni. La natura della mia professione mi ha portato nel corso degli ultimi 30 anni in contatto, e non soltanto nel solito contatto, con una categoria di uomini interessante all'apparenza e in qualche modo singolare, sui quali, per quanto ne so, finora non è mai stato scritto nulla. Mi riferisco ai copisti legali, ovvero agli scrivani. Nella mia vita professionale e privata ne ho conosciuti moltissimi, e se volessi potrei raccontare varie storie che farebbero sorridere i benevoli e piangere i sentimentali, ma per qualche brano sulla vita di Bartleby, il più strano che abbia mai visto e conosciuto, rinuncio alla biografia di tutti gli altri. Mentre di molti scrivani potrei narrarvi l'intera vita, non si può fare nulla del genere per Bartleby. Non esiste materiale, ne sono convinto, per comporre una biografia completa e soddisfacente di quest'uomo. È una perdita irreparabile per la letteratura. Bartleby! Uno di quegli individui sui quali non si riesce ad accettare nulla senza risalire alle fonti originali, nel suo caso molto molto esigue. Quello che videro i miei occhi attoniti, ecco quello che so di lui, tranne in vero una vaga notizia che apparirà in seguito. Ma prima di introdurre lo scrivano, quale mi apparve la prima volta, è opportuno che accenni a me, ai miei employé, al mio lavoro, al mio ufficio, all'ambiente in generale, perché si tratta di ragguagli indispensabili per capire in modo adeguato il protagonista che fra poco sarà presentato. Innanzitutto, sono un uomo che dalla giovinezza in poi ha maturato una profonda convinzione: nella vita la via più facile è la migliore. Ne consegue che, pur svolgendo una professione proverbialmente esuberante, a volte coincitata ai limiti della turbolenza, non ho mai lasciato che cose del genere sconfinassero nella mia pace. Sono un uomo di quegli avvocati privi di ambizioni, che mai si rivolgono alla giuria e in nessun modo inseguono l'applauso del pubblico, ma che, nella tranquilla frescura di un angolino appartato e discreto, si dedicano a un lavoro discreto fra i titoli, le obbligazioni, le ipoteche di uomini abbienti. Quanti mi conoscono mi considerano una persona eminentemente cauta. Si capisce fino adesso che Melville usa in prima persona le parole d'avvocato, questo avvocato che ha principalmente due qualità fondamentali: la prima è la prudenza e la seconda è il metodo. Il suo ufficio si trova a Wall Street a New York ed è abitato da altre 3 persone, e la prima della quali si chiama Turkey, il tacchino, che durante, prima dell'ora di pranzo, aveva un colorito florido, la sua pelle era abbastanza linda e pulita, quando dopo mezzogiorno, dopo pranzo, diventa un tizzone ardente e comincia ad andare in escandescenza provocando non pochi problemi all'avvocato e ai documenti. Il secondo nella lista era Pinsnetz, un giovanotto di circa 25 anni, giallognolo, con le basette, con un'aria abbastanza piratesca, che è nella prima parte della mattinata è una persona abbastanza irruenta e soffre di cattiva digestione. Quindi diciamo che si alternano questi due momenti in cui questi due personaggi manifestano la loro parte più cattiva. Il terzo invece della lista è Zenzero, che è un ragazzotto di 12 anni, il padre carrettiere ha sempre nutrito l'ambizione di vederlo, prima di morire, seduto sul seggio di un tribunale. Ora, la mia attività ordinaria, quella di redigere atti notarili, di spulciare sulle regolarità dei titoli, di stendere oscuri documenti di varia natura, ebbe un considerevole incremento dopo che fui nominato all'alta corte di equità. C'era quindi molto lavoro per i copisti, non soltanto dovevo mettere sotto torchio gli impiegati già con me, ma dovevo procurarmi altro aiuto. In risposta ad un annuncio, una bella mattina si parò immobile sulla soglia del mio ufficio un giovane. La porta infatti era aperta, perché era estate. Rivedo ancora quella figura, pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida. Era Bartleby. Dopo qualche cenno sulle sue qualifiche lo assunsi, felice di avere nella mia squadra di copisti un uomo dall'aspetto così singolarmente mite che pensavo forse avrebbe avuto un benefico influsso sull'irrequietezza di Tacchino e l'irruenza di Pince-Nez. In un primo tempo Bartleby eseguì una straordinaria mola di lavoro, quasi fosse ingordo di avere qualcosa da copiare. Pareva volesse rimpinzarsi di documenti, non c'era pausa per digerirli. Scriveva giorno e notte, copiando alla luce del sole e al lume della candela. Mi avrebbe entusiasmato quella sua dedizione se fosse stato allegramente operoso. Continuava invece a macinare il lavoro in silenzio, esangue, con moto meccanico. E naturalmente parte essenziale del lavoro dello scrivano accertarsi che la copia sia esatta parola per parola. Se in un ufficio vi sono due o più scrivani, si assistono a vicenda in questo controllo, uno leggendo la copia, l'altro tenendo l'originale. Una faccenda noiosa, spossante, soporifera. Era con me credo da 3 giorni. Non c'era stata ancora la necessità di esaminare le sue copie quando, dovendo completare in gran premura una faccenduola, di punto in bianco chiamai Bartleby. Nella fretta e nella naturale aspettativa di un'immediata obbedienza me ne stavo seduto con la testa china sull'originale, posato sulla mia scrivania, la mano destra di lato nervosamente tesa nel porgere la copia, in modo che emergendo dal suo cantuccio Bartleby potesse afferrarla e procedere all'esame senza il minimo indugio. E in questo atteggiamento sedevo dunque quando lo chiamai, spiegando rapidamente quello che volevo da lui, cioè esaminare insieme a me un breve documento. Figuratevi la mia sorpresa, anzi la mia costernazione, quando senza muoversi dal suo angolino, con voce singolarmente soave ma ferma, Bartleby rispose: preferirei di no. Rimasi per qualche tempo seduto, trasecolato in assoluto silenzio, chiamando a raccolta le mie facoltà attonite. Subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato, oppure che Bartleby avesse completamente frainteso quello che volevo. Ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile, ma con altrettanta chiarezza giunse la risposta di prima: preferirei di no. Preferirei di no. Ma come sarebbe a dire? Le ha dato di volta il cervello. Se mi aiuti a controllare questo foglio con originale, sì, si sbrighi. Preferirei di no. Ora, alcuni giorni più tardi, Bartleby terminò 4 lunghi atti e altrettante copie di una settimana di testimonianze prestate davanti a me nell'alta corte di equità. Si rese necessario controllarli, si trattava di una causa importante che imponeva la massima accuratezza. Sistemato tutto, chiamai Tacchino, Pince-Nez e Zenzero, che erano nella stanza attigua, con l'intenzione di dare a ciascuno dei miei 4 impiegati una copia del documento, mentre io avrei letto l'originale. Obbedendo al mio ordine, Tacchino, Pince-Nez e Zenzero si erano seduti in fila, l'uno accanto all'altro, ciascuno con la sua copia in mano, quando chiamai Bartleby a raggiungere questo interessante gruppetto. Bartleby, si sbrighi, aspetto. Percepii il lento stridio delle gambe della sedia contro il pavimento nudo e subito dopo apparve in piedi all'imbocco del suo eremo. Che cosa le serve? Le copie, stiamo per confrontarle, ecco. Preferirei di no. E scomparve dietro il paravento. E questa volta rimasi di sale per qualche istante lì in piedi alla testa della colonna degli impiegati seduti. Rivendomi, avanzai verso il paravento e gli chiesi ragione di una condotta tanto inconsueta. Perché rifiuta? Preferirei di no. Con chiunque altro sarei esploso e senza sprecare altro fiato l'avrei cacciato con ignominia dal mio cospetto, ma c'era in Balthasar qualcosa che non soltanto stranamente mi disarmava, ma anche in modo curioso mi toccava e mi sconcertava. Cominciai a ragionare con lui. Sono le sue copie che ci accingiamo a controllare. Le risparmia fatica perché un unico controllo serve per tutti e quattro. Si fa sempre così. I copisti sono tenuti a controllare le loro copie. Non è così? Non intende dire niente? Risponda! Preferisco di no. Rispose con voce flautata. Mi parve che, mentre mi rivolgevo a lui, egli soppesasse con attenzione ogni mia frase, ne comprendesse pienamente il significato, non potesse confutare l'ineluttabile conclusione, ma che nello stesso tempo una qualche suprema considerazione lo costringesse a rispondere in quel modo. Lei è deciso allora a non adeguarsi alla mia richiesta, una richiesta conforme all'uso comune e al comune buonsenso. Mi fece brevemente capire che su quel punto la mia valutazione era corretta. Sì, la sua decisione era irrevocabile. Nel frattempo se ne stava nel suo eremo, dimentico di tutto e di tutti, tranne di quel documento davanti a sé. Ecco, a questo punto ci troviamo di fronte a questa situazione abbastanza scomoda, per cui una persona all'interno di un ufficio con altre persone, altri lavoratori, preferisce di no. E lo scompiglio è chiaro nei volti e nel fare degli altri due. Trascorsero alcuni giorni che videro lo scrivano impegnato in un altro lunghissimo lavoro. La stranezza del suo comportamento da un po' di tempo a quella parte mi portò a osservare da vicino i suoi modi. Notai che non andava mai a pranzo, anzi, non andava mai da nessuna parte. Per quanto ne sapessi, non mi risaltava che fosse mai uscito dall'ufficio, eterna sentinella nel suo angolo. Osservai che verso le 11 del mattino Zenzero avanzava verso il pertugio nel paravento di Balthasar, quasi fosse stato convocato da un cenno invisibile da dove ero seduto io. Il ragazzo allora usciva facendo tintinnare qualche moneta e riappariva con una manciata di focaccine che depositava nell'eremo, ricevendo due dolcetti per il fastidio. E allora vive di focaccine? Non fa mai un vero e proprio pranzo, sarà vegetariano, ma che, non mangia mai verdure, mangia soltanto focaccine allo Zenzero. Cominciai allora a rincorrere con il pensiero fantasie sui presumibili effetti che avrebbe potuto produrre sull'organismo umano un nutrimento esclusivamente a base di focaccine allo Zenzero. Si chiamano così perché uno dei principali ingredienti, quello che dà il sapore, è lo Zenzero. Ora, che cos'è lo Zenzero? Una cosa piccante, speziata. Bartleby era piccante e speziato. Pochi sanno che il Tacet è in partitura. Niente affatto. Lo zenzero quindi non aveva alcun effetto su Bartleby. Probabilmente egli preferiva che non ne avesse. Nulla esaspera una persona seria quanto la resistenza passiva. Se l'individuo cui si resiste non è di temperamento disumano e chi gli resiste è una persona innocua nella sua passività, allora il primo, quando è di buon umore, si sforza nella sua immaginazione di capire con la carità quanto si dimostra impossibile da spiegare con la ragione. Così per lo più consideravo Bartleby e le sue maniere. Poveraccio, non ha intenzioni malvagie, è chiaro che non vuole essere insolente, basta guardarlo per capire che le sue eccentricità sono involontarie, mi è utile, riesco ad andarci d'accordo, se lo mando via è probabile che capiti con un principale meno indulgente, sarà trattato male, rischia addirittura di morire di fame, sì, ecco che a basso prezzo posso crogiolarmi dell'autocompiacimento. Mostrarmi amico di Bartleby e assecondarlo nella sua ostinazione mi costerà poco o niente, mentre io accumulo nell'animo quello che finirà per dimostrarsi un dolce bocconcino per la mia coscienza. Ma non sempre ero di questo umore. La passività di Bartleby a volte mi irritava. Mi sentivo stranamente pungolato a venire ai ferri corti con lui in un nuovo contrasto, a far scattare una qualche scintilla di rabbia che rispondesse alla mia. Ma tanto valeva cercassi di accendere il fuoco strofinando le nocche con un pezzo di sapone Winter. Ma un pomeriggio in me prevalse l'impulso malvagio e ne seguì questa breve scena. Bartleby! Quando quei documenti saranno stati copiati, tutti li confronterò insieme a lei. Preferirei di no. Preferiremo non continuare. Oh, una riduzione di Penn che sarà in scena, lo ricordi tu Antonio a questo punto, visto che comunque già lo ha detto il nostro Simone, ma ci siamo, per cui sì lui l'ha fatto però con il Charleston. Allora siamo in scena dal 20 al 23 novembre al Teatro Studio 1, via Carlo della Rocca 6. E i primi giorni dal giovedì al sabato alle 21, mentre la domenica alle 18. Ok. Da dove viene fuori questo nuovo spettacolo, Antonio? Allora, niente, nel senso che era un po' di anni che io pensavo a questo essere, questa creatura particolare che era già entrata nella mia vita. Ma penso che non... Come era entrata nella tua vita? Era entrata dagli occhi, nel senso che leggendo era entrata. Poi un personaggio che riecheggia molto quelli che sono i miei personaggi preferiti, quelli kafkiani, quelli beckettiani, quindi in questa sua immobilità, questo creatore dell'universo praticamente. E quindi niente, non sapevo come metterla in scena. Poi alla fine mi è venuto in mente che il suono poteva essere la chiave, e quindi mancava una persona per fare tutto ciò, e a quel punto ho chiamato e reclutato Cristiano Urbani. Con cui già lavoravi, no? Abbiamo fatto una cosa insieme, l'abbiamo fatta all'interno abbiamo di fatto delle cose. Una partita a calcetto. Una partita a calcetto. Quindi stare mutando insieme ci mette in intimità, e quindi c'è la possibilità di fare anche un lavoro a teatro. E Cristiano, che tipo di lavoro per questo spettacolo il tuo? Abbiamo abbiamo cercato di dare largo spazio a una parte improvvisativa, in cui si crea quello che si chiama, no, una parola inglese, interplaying. Visto che in inglese può essere pure una parolaccia, esatto, interplaying. E quindi al di fuori di questo aspetto qui più improvvisativo, poi ci sono delle ovviamente parti non scritte che abbiamo preferito non scrivere, abbiamo preferito non provare, e tutto sommato non abbiamo neanche suonato, performato oggi. No, sostanzialmente no. Oggi abbiamo occupato uno spazio a Radio Onda Rossa che così, in maniera del tutto occupare uno spazio occupato, è fantastico, esatto, quello che sia, come ha fatto del resto Bartemi. Esatto. Quindi esatto. Abbiamo usato la nostra potenza di scriverne per non scriverla. Esatto. No, va bene l'interplaying, ma va detto che il fischiettare di Antonio è stonato. Ma Antonio è stonato, no, è falsamente stonato. Antonio è intonatissimo, canta molto bene e sta lavorando da molti anni per questo, cioè è un po' un lavoro a riduzione, è un preferire non essere mai, ma lo faccio anch'io spesso, quando faccio degli errori o comunque quelli che sono immaginati, quelli che vengono percepiti come errori, suonando in realtà sto scegliendo di non suonare come qualcuno si aspetta, a volte anch'io. Cristiano, la tua attività abituale per quanto riguarda la musica, hai un gruppo, suoni da solo? Sì, io ho più di un gruppo, suono con un trio di musica folk con Mary Ann Fenimore, questa cantante americana che vive a Roma da qualche anno, è un trio di musica folk. Poi ho due formazioni più jazz, diciamo, si dice così, e una con un quartetto con trombonista e un quartetto con sassofonista. I miei compagni di musica sono Andrea Pantaleone, Dario Pimpolari, Giovanni Testa e Erika Raffaeli, quindi per citarli tutti. Mentre di Mary Ann Fenimore già ho parlato, poi... Hai dei tuoi riferimenti internet? Sì, ho i miei riferimenti internet, che sono la pagina Facebook di Mary and the Strays, poi la pagina anche privata che io utilizzo in maniera assolutamente pubblica, come si usa fare in questi tempi. È sociale, sociale. Quindi fondamentalmente potete vedere pure il fatto che... Tutti se gli proprio ci tenete, ecco, se proprio un giorno non avete niente da fare. Comunque questi sono i riferimenti. Per Mary and the Strays c'è anche un sito internet che è appunto www.maryandthestrays.com, ossia www.maryandthestrays.com. Ho fatto uso di saponi Windsor. Windsor, mi sono anche, no? Ho scelto di non ridere su Windsor. E, poi al di fuori di queste attività c'è tutta un'altra attività, diciamo, che è quella laboratoriale didattica e perché no anche teatrale di tanto in tanto, quando il buon Sinisi. Il buon Sinisi che non sta fermo un attimo. Il buon Sinisi è pieno di idee. Pieno di idee. Tante e confuse, ma. Cosa ne pensa? È un lavoro entropico quello di estrapolarle tutte, però perché credo che piano piano esce. Sì, in effetti sì. Stando fermi dentro casa a volte c'è questa possibilità di tirare fuori i propri mostri. Si è potuto anche sentire dalle registrazioni, ecco. che ripetiamo erano acustiche. Vivo, sì, abbiamo fatto questa riduzione esclusivamente acustica, mentre faremo largo uso di elettronica. Perché abbiamo preferito farle acustiche. Abbiamo preferito ovviamente non farle diciamo elettroniche. Perché sì. preferire di no è la nostra massimo attimo. Ormai noi preferiamo e non supponiamo più. Ma non c'è più bisogno, no? Come, insomma, che bisogno c'è? Quando hai fatto un sogno bellissimo, giusto? Sì. Non so, quando ti vorrebbero assumere, tu dici preferirei di no. Ci vuole lavorare, le diamo, la riempiamo o no? Preferirei di no. Senti Antonio, invece i tuoi di riferimenti che sono tanti, Sono tanti, però ne diciamo due così semplifichiamo. Sì, semplifichiamo la vita alla gente. Il mio personale è antoniosinisi.net, mentre quello della compagnia, è quello teatrale, è Natasha von Braun, è bit.ly con la y/Natasha von Braun. Si sta sbagliando. Ma li fa difficile. No, in realtà ho semplificato, se no era natashavonbraun.tumblr.com. No, basta, cercato di semplificare. Diciamo che a vista è più facile. Senti, ma hai tenuto conto delle cose che hai fatto qui a Radio Teatro? No? Sì. Tutte le possiamo anche dire velocemente. Le possiamo anche aspetta che abbiamo un curriculum. Nel curriculum mio ho scritto quello che ho fatto al Radio Teatro. Comunque qui siamo venuti, ricordiamo. Allora, ci piace ricordare quante volte vengo qui io a occupare lo spazio. Allora, abbiamo fatto N sicuramente e Occhi di carta l'estratto, quella volta lì che siamo andati al Teatro Studio 1. Come dimenticarlo? Abbiamo lavorato con il mio gruppo di lavoro Susi Suscia e abbiamo portato parte del radiodramma che ha debuttato proprio qui a Radio Teatro e poi è stato esportato a Radio Sonar in una trasmissione che poi si è chiamata 24. Abbiamo lavorato sulla Capitale del Dolore qui insieme a Simone Di Pascasio e Elisa Turco-Liberi. E poi non credo, abbiamo annunciato qualcosa telefonicamente perché tu ti stufavi di farmi venire sempre in studio, quindi abbiamo parlato di Logos. Hai preferito anche di no, quindi Logos e l'Imnesia. Abbiamo parlato telefonicamente, esatto. Io stavo in mezzo al traffico e niente, poi basta, credo, no? Basta. Quindi alla fine non è tanta roba, sostanzialmente ci abbiamo ancora, però ci sentiamo spesso anche su queste frequenze. No, ma io t'ascolto, alla fine vedo le cose che fa, insomma sei una persona abbastanza diligente. Cioè, lui ti lo controlla. No, perché uno si pensa che facendo questi lavori qui di critica, di informazione, alla fine nessuno li controlla perché sono loro il potere. In realtà noi che facciamo una vita d'inferno, li guardiamo proprio e li ascoltiamo. Bravissimo. Allora ricordiamo gli appuntamenti, una 4 giorni, dal 20 al 23. Dal 20 al 23 dello Studio 1, via Carlo della Rocca numero 6, siamo a Torpignattara nella sala specchi. Non vi sbagliate che entrate nell'altra sala perché sarebbe un dramma per noi. E ci dobbiamo spostare, questo è il punto. Appena entrate e scendete le scale, se vi vedete riflessi siete nella stanza giusta. Sì. Ok, un grazie ad Antonio, a Cristiano, un abbraccio e qualche risata più in là ce la facciamo? Ma come te la sei prossimamente? No, perché tu sei uscito, Federico, quando ci stavano le cose divertenti. È vero. Noi abbiamo riso. Va bene, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie.